più forte di prima. Si dice che gli aveva andato troppa caffeina, ma adesso è tornato ancora più incazzato. Ce l'ha con Max Pezzali e pure un poco col creato. Mi ha detto di diffondere il messaggio alla nazione, mi ha detto di dire che lui è pronto all'azione. Squillino le trombe, rullino i tamburi, d'ora in poi nel Bronx si ritorna più sicuri. È tornato un uomo ragno, non è mai andato via, tutta colpa di Pezzali, era solo una bugia. È tornato un uomo ragno, ora che lo sa anche te, se vuoi puoi darmi la mano e cantarlo insieme a me. È tornato un uomo ragno, non è mai andato via, tutta colpa di Pezzali, era solo una bugia. È tornato un uomo ragno, ora che lo sa anche te, se vuoi puoi darmi la mano e cantarlo insieme a me. L'ha già incontrato, il ragnatelato per averlo sfiorato, solo per averlo sfiorato, solo per averlo sfiorato. I suoi poteri sono aumentati, si dice che va in giro con la Maserati, ovviamente modificata, come macchinoni della concorrenza spietata. È tornato l'uomo ragno, non è mai andato via, tutta colpa di Pezzali, era solo una bugia. È tornato l'uomo ragno, ora che lo sa anche te, se vuoi puoi darmi la mano e cantarlo insieme a me. È tornato l'uomo ragno, non è mai andato via, tutta colpa di Pezzali, era solo una bugia. È tornato l'uomo ragno, ora che lo sa anche te, se vuoi puoi darmi la mano e cantarlo insieme a me. Le buone notizie, il commissario ha ordinato le pizze, il crimine farà girare meno sirene, ai giorni contati e questo è un bene. E l'unico male che si festeggerà è quello che si potrà dire che non tornerà. Sì, l'unico male che si festeggerà è quello che non tornerà. È tornato un uomo ragno, non è mai andato via, tutta colpa di Pezzali, era solo una bugia. È tornato un uomo ragno, ora che lo sa anche te, ora che lo sa anche te, ora che lo sa anche te. È tornato un uomo ragno, non è mai andato via, tutta colpa di Pezzali, era solo una bugia. È tornato un uomo ragno, ora che lo sa anche te, se vuoi puoi darmi una mano e cantarlo insieme a me. Se vuoi puoi darmi la mano e cantarlo insieme a me.